Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. È una giornata fosca per il viaggiatore, anche perché parlo malissimo. Parlare malissimo significa avere difficoltà a dare corpo vocale ai propri pensieri. Ho la lingua fratturata, ma è stato un incidente di dentista, nulla di che. Però succede che è come se il podista si frattura una gamba, è come se il pianista viene preso a martellate sulle mani, come accade nei film di malavita organizzata. Succede che la persona che dovrebbe raccontare del treno la sua vita abbia la lingua tagliata e quindi parla così male. Per fortuna vedo di fronte a me una presenza amica, sento che mi aiuterà a riempire il vuoto che da qui a poco si produrrebbe in questa mia chiacchierata per la mia lingua sanguinante. Mi sembra essere quasi una reliquia di un santo, la lingua sanguinante. Beh, è la collezionatrice di farlocchi di provincia, che già una volta mi ha raccontato quanto fosse difficile la giornata per una donna di belle speranze in un luogo remoto e ottuso in cui gli uomini non si accorgono nemmeno lontanamente della sua presenza. E devo dire che è una bella presenza. Fra donna, adesso spiegami un po' di misteri delle donne. Siete tutte aggiornate rispetto, diciamo, la tabella di marcia di una di voi? Cioè, tu scrivi su WhatsApp, fatto, stasera cesco, sto per concludere, ho concluso, ok, 6 melanzane, 5 solicelli, 8 mezzelune, è così? No. Sì. Ah, vedi, dipende poi, quella che conclude di più, ma non è tanto diverso dagli uomini, secondo me, perché quella che conclude di più di solito non la vedi più su WhatsApp. Devi andare a prenderla, chiederle come sta, cosa è successo. È l'amica che scompare dal giro, che dice: no, sai, un momento voglio riflettere. In realtà è l'unica che, sì, che ha messo l'osso del prosciutto nella pentola. Le altre chiacchierano e chattano, lei no. Sì, è come gli innamoramenti del Melandri di Amici Miei. Scompare, già capito dove è finita. Ah, ecco. Sì, però di solito ci si racconta tutto e sì, quella è sì, la perché cosa... le amiche sono insistenti, ma dimmi, tu mi nascondi qualcosa, perché volete sapere sempre tutto le vostre amiche? Ma no, ma anche domande più dirette, ma come se si fosse tra maschi. Allora, ieri sera, come è andata? Cioè, proprio sì, no? Cioè, anche domande molto più schiette, così. Quindi la nostra misera privacy di uomini ormai è sulla piazza, lo sanno tutti. Sì, cioè, ma tu ti è mai capitato tutto di incontrare un uomo di cui sapevi già tutto, che ti hanno raccontato le amiche e ti viene magari da ridere? Tantissimo. Fammi qualche esempio. Vabbè, per esempio, che avevano raccontato che c'era questo finto trombeur de femme, che poi in realtà lui si chiamava così, trombeur, in realtà era il trombeur, ma poi in realtà si è scoperto che questo faceva cilecca con tutte. Ah, quindi è girata la voce, un po' girata la voce. No, ma la cosa bella è che questo si presentava, dopo 2 minuti ti faceva vedere una foto sul cellulare, che fosse che tu fossi una sua amica, un amico oppure una persona appena conosciuta, non importava, ti faceva vedere la foto di questa e ti diceva tutte le posizioni, quello che aveva fatto, quante volte la vedeva. Vabbè, e ma poi è stupido. Andava ritroso. Ma cos'è, stupido? Sì, è la maniera migliore perché una donna non ti dia assolutamente ascolto. Sì, ma questo era, cioè, erano le vanterie da bar, quindi un personaggio che si vantava di 1000 conquiste, andando anche indietro negli anni, ricordandosi, parliamo di una persona di 38 anni, quindi... Non è un bambino. No, che continuava a dire queste cose qua. E poi, da parte, comunque, gli amici mi hanno detto, vedi, l'avevo detto, però comunque... sono tutte conquiste che noi non conosciamo perché è andato a farle fuori da qui. Fuori provincia, ma in realtà poi quelle due o tre disgraziate che invece erano state con lui ci avevano già raccontato. C'era la costante che miserabili fine... prestazioni. Sì, esatto. Quindi si inventava di queste conquiste che non esistono. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. La vanteria è più triste, la miserabile prestazione, che può essere una costante nel mondo maschile, ma la vanteria è terribile perché rende ancora più miserabile la prestazione. Sì, oppure ci sono, sempre uomini però devo dire che raccontano queste cose. Non è mai capitato di... sì, anche donne, ma la maggior parte sono gli uomini che raccontano aneddoti a sfondo sessuale ironico su altri uomini. Per esempio di un personaggio noto della mia città dicevano: se vuoi ottenere qualcosa da quest'uomo devi tirar fuori i piedi. Ah, un feticista. E li metti sulla scrivania. Feticista. E questo era sembrava un prete addirittura, tutto compito, tutto a posto. Quando aveva i piedi impazziva. Sì, ha detto qualsiasi cosa tu vai lì e poi non l'ho mai fatto, però mi veniva da ridere quando lo vedevo, perché non l'avrei mai detto che insomma un personaggio del genere fosse così feticista. Impazziva, diventava proprio matto. Sì. Hai avuto amiche che l'hanno fatta questa cosa? No, tutti uomini che dicevano che questo signore impazziva per i sandali col tacco alto, i piedi delle donne, che infatti in effetti poi ho notato che lui guardava sempre di una donna, lui spesso aveva gli occhi bassi, guardava i piedi. Non ci avevo fatto caso prima. Vabbè, no. È una parafilia, gli piacevano i piedi. Che devo dire. Sì, però certo. Poverino, non sapeva che il suo segreto era sulla bocca di tutti. Esatto, ma ce ne sono di storie di questo tipo, però di solito mi ricordo sempre, sono gli uomini che vengono a raccontarle, come se svelassero qualche debolezza che potesse così sbaragliare la concorrenza. Si fanno il vuoto esatto. Intorno. Beh, se la piace più alla donna, può essere anche interessata, io ho delle belle scarpe, siamo fatti l'uno per l'altra, no? Cioè. Sì, infatti non è una cosa che scredita, forse scredita di più dire guarda che quello lì è un impotente, guarda che quell'altro, poi quello che ti guarda i piedi è anche poco usurante come rapporto, non ti crea problemi, non crea malattie sessualmente trasmettibili, non ti crea pruriti, non ti crea nulla, ti guarda i piedi, metti lì, tranquilla. Sì, ma poi invece altre cose, tipo avevamo un amico che era riparatore di computer e da lui arrivavano le cose più succulente. Guardava nell'hard disk degli altri, figurati. Sì, ma soprattutto di gente che anche lì, sempre, non il classico, insomma, personaggio che puoi conoscere, lo vedi già, che sembra un po' un pervertito piuttosto che uno sopra le righe, no? Sempre persone tutte compite, tutte a posto. Proprio il compito quando sta solo ha bisogno di bilanciare la sua apparente tenuta etica e morale. È chiaro, se va a cercare le cose che della vita non gli fornisce, perché non avrebbe mai coraggio cercarsele concrete. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Sì, ma qua proprio per farci vedere la differenza, avevamo anche viste queste foto che erano ridicole, di un altro personaggio ovviamente noto anche per essere una persona molto seria, però ancora casa con mamma, per dire abbiamo visto queste foto di questi primi piani, diciamo sempre con lui da solo, e in questa cameretta c'erano ancora gli orsacchiotti col suo nome sopra, ma stiamo parlando di un quarantenne, cioè lui si fotografava in casa con mamma e si fotografava le parti basse, sì da mandare in giro alle sue ammiratrici, che poi in effetti questa cosa è risultata vera perché non c'era cellulare della zona che non avesse, diciamo, questa foto ricordo. Certo, questo ovviamente io sono aperto a tutte le inclinazioni umane, ma di mandare uno o è veramente a concrete oggettive sicurezze che sia un genere mirabolante da far vedere in giro, ma se no veramente pretestuoso, con quello che gira oggi in rete, che uno veramente vede cose che la natura mai avrebbe pensato o immaginato di concepire, e mandare la propria cosettina, che probabilmente sarà nella media o sotto la media, ci vuole una bella faccia tosta, no? No, la cosa divertente è che era sopra la media, forse anche l'inquadratura, era sopra la media, nello sfondo c'era questo pupazzo, questo orsacchiotto, col suo bavaglino, col nome suo, col diminutivo di quando era piccolo, e tutta la stanza ancora azzurra con le greche alle pareti e questi cuscini colorati. Era una stanza di un bambino, che però il bambino, era una stanzetta, ma il bambino a 40 era, anni. E il bambino però era cresciuto. È cresciuto ma tenuto in casa. E tu dici uno spreco? No, cioè a vederlo per strada è il classico bravo ragazzo. Non dimostra meno anni di quelli che ha, persona influente. Però poverino, non ti fa tenerezza. Si era accorto che la natura almeno in una cosa l'aveva beneficato. Non aveva il coraggio naturalmente di farne un uso concreto, almeno lo mandava in giro, come dire: uno c'ha una bella automobile nel garage, la faccio vedere in giro, anche se non c'ho la patente, è uguale, no? Sì, sì. Un po' di tenerezza. La cosa che credeva era l'immagine che c'era dietro di lui. E beh, quelli non li poteva togliere. Toglieva lo zocchiotto, la mamma subito mangiava la foglia e qualcosa non era cambiato nel suo bambino. Sì, beh, abbastanza, era inquietante. Senti, poi ti lascio andare che devo scendere. Ma quanti anni passeranno perché si estingua questa generazione di madri, che mi sembra che sono proprio quelle che hanno rovinato il mondo, che sono madri che, dunque, se il figlio ha una quarantina d'anni, 35-40, saranno madri mie coetanee, sessantenni, queste che hanno più o meno fatto il 60, le mie compagne di classe saranno, ecco, probabilmente dovranno morire le sessantenni perché l'umanità si è libera da madri. Voi non rifarete mai gli stessi sbagli con i vostri figli? No, quello che abbiamo visto con i nostri genitori, che poi sono anche i genitori di questi, cioè la generazione è quella, sono i 60-70 anni di oggi comunque. Sono le madri che tengono i figli a casa, anche se non lavorano, ci sono appunto come in questo caso benestanti, non fanno niente dal mattino alla sera, quando devono uscire gli danno la paghetta, davvero, e se sanno che hanno un appuntamento amoroso, partono, vanno nella boutique a comprare il regalino preliminare per la futura, diciamo, occasione del figlio, e questo si presenta col dono omaggio, perché bisogna sempre presentarsi con l'omaggio. Che ha comprato la madre? Che ha comprato la madre. Ecco, spiegami un po', qual è il tipo di oggettistica che può scegliere una madre per il figlio da dare a una possibile preda amorosa? Perché non mi viene in mente proprio. Cosa vi regala? Nel nostro caso borsette, diciamo, molto molto costose. Far colpo. Vabbè, un affare, scusa. Sono di ottimo gusto. Quello che tu vorresti che ogni uomo ti regalasse. Io pensavo delle schifezze, pastorelle di porcellana, pensavo cose del genere. No, invece, la borsetta di marca. Sì, sì, assolutamente. Ma borsette, parliamo di migliaia di euro. Sì, ma non è meglio che lo mandano a puttane, scusa il termine. Con migliaia di euro si trovano donne disponibilissime e anche molto belle, probabilmente, non lo so. Non sarebbe giusto per la sua, diciamo, situazione sociale, quindi non va bene. Stiamo parlando di persone molto su con... Beh, allora cercano una moglie, in realtà cercano una moglie per il figlio. Ma no, cercheranno di farlo sfogare in qualche modo, perché secondo me la madre gli ha visto queste foto, allora ha detto: se continua a farti le foto è la stessa persona dell'orsetto. Vedi, non me l'hai detto. Penseranno di sbolognarsi. La stessa persona dello zocchiotto che si fotografa la torre di Pisa che la natura gli ha dotato, però quando esce porta la borsetta in mano comprata dalla mamma. Beh, è un quadro terrificante. Sì, al primo appuntamento. È un quadro terrificante. Non è imbarazzante avere una borsetta da 1000 euro al primo appuntamento? Ma nemmeno un Cumenda della commedia italiana anni 60 faceva queste cose. No, in realtà c'è la fila. Avevamo anche pensato con delle amiche di metterci assieme. Anche un mio amico mi ha detto: chi se ne frega, ci facciamo fare la parure. Io volevo tanto un borsello da uomo, volendo, magari. Quindi ho detto: va bene, tu il portafoglio, quest'altra. Poi vabbè, ovviamente era per ridere, però effettivamente c'è la fila dietro quella porta, anche di mamme che vorrebbero. Le mamme che hanno tutte in fila con le figlie che vogliono le borsette. Vabbè, esatto. Devo dire, ancora una volta mi confermi quale fogna profonda sia sotto l'apparente area di leggiadria e di mondo antico la provincia italiana. Una cosa terribile. Supera l'immaginazione, purtroppo sono cose vere. Ciao, buon viaggio. Ciao. Ciao. Ho preso un treno che va verso il sud Italia. Lo faccio raramente, ma solo per una semplice ragione, che poi a un certo punto sotto l'Italia finisce e non posso andare avanti. Invece verso il nord posso sbizzarrirmi, pensare, immaginare che perlomeno potrò varcare delle frontiere. Andando il treno verso il basso in senso metaforico naturalmente, si dice sempre scendiamo. Avevo nella mia città di provincia, in cui avevo l'illusione che il mondo mi girasse attorno, io fossi sempre in movimento, ma sempre ero lì, perché era una città con una grossa università, anche un'università per stranieri, in cui entrava, usciva, veniva gente di ogni tipo, di ogni ordine, di ogni genere, e sembrava di essere internazionali, ma sempre rimaneva la vita sigillata e impietrita lungo il corso cittadino. Beh, ricordo tutte le mie amiche studentesse fuori sede che venivano da Lecce, venivano da Taranto, venivano da Foggia, venivano raramente anche da città della Sicilia. Dicevano sempre: il fine settimana devo scendere, domani scendo, oggi salgono i miei, e portavano su l'olio, portavano su le focaccelle, portavano su i generi di conforto. Era una salita e una discesa, quindi, questo lo dico per giustificarmi, nella mia testa c'è l'idea che l'Italia sia in discesa, che a un certo punto si scende e ad un altro punto si sale. Beh, mentre scendo vedo anche una donna che scende assieme a me, ma mentre scendo per trovare, per vedere, per indagare, per pormi domande, lei scende verso quella che sarà sicuramente la sua terra d'origine. È una donna che contraddice ogni stereotipo, se vogliamo affibbiarne di tali alla terra del fantastico meridione, perché è vestita esattamente come una milanese, e quindi naturalmente immagino che sia quella che viene definita con una arcaica, se vogliamo, lettura, una donna manager. Sono andato al dentista, ma mi aveva fatto l'anestesia. Io naturalmente parlo sempre, ho parlato per 3 ore con l'anestesia, e tanto il dente mi stagliuzzava la lingua. Mi è andata via l'anestesia e mi ritrovo una lingua smetta. Però puoi trovare, c'è una soluzione. Puoi appiccicare su quel dente. Ma adesso me l'ha limato ormai il dente. Sì, la gomma, ci ho messo di tutto. La gomma. Il dente me l'ha limato, ma il buco rimane. Adesso ci vogliono 4 giorni che si chiude. Tu pensa che uno che passa la vita parlando, che vuol dire? È come la sirenetta quando gli nascono i piedi, che camminava gli faceva male. Ecco, io parlo e c'ho la lingua che a pezzi, capito? Però pazienza. Però hai il privilegio di passare la vita parlando e di poter dire spesso ciò che pensi. No, quello lo dico sempre, figurati. Oh, e allora è un grandissimo privilegio, devi pure pagare qualche scotto. Eh sì, c'hai ragione, esattamente, come la sirenetta vuole camminare. Ma perché tu non hai problemi per dire quello che pensi, no? Beh sì, spesso sì, ho problemi a dire quello che penso. Nella mia attività, facendo l'imprenditrice commerciale, spesso frequento i punti vendita per fare una serie di rilevazioni, per chiacchierare con i responsabili dei punti vendita, e assisto a conversazioni surreali con i clienti. Ci sono dei momenti in cui vorrei prenderli per la giacchetta, afferrarli e cacciarli a calci nel sedere. Sono nei negozi e quindi diciamo che sono un'osservatrice, diciamo, esterna, no? Però tu sei la responsabile, quella che dice punti vendita, comportatevi bene, mi sembra di aver capito. Certo, la prima regola fondamentale è accogliere il cliente e ascoltarlo attentamente, no? Ascoltarlo, perché l'obiettivo è risolvere i problemi. E in questi ultimi anni io assisto a scenate che non vedevo 10 anni fa. 10 anni fa entravano, acquistavano, non discutevano a lungo sul prezzo, uscivano, ma difficilmente entrando ti dicevano: sei una ladra. Ad una ragazza che rappresenta un'organizzazione, ma non può essere. Cioè il cliente ladra. Dice alla ragazza che sta dietro il banco: sei una ladra. Sei una ladra. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Io li osservo queste relazioni. Quando vanno via, dico al ragazzo o alla ragazza: hai visto che è successo? Secondo me però dovevi, anziché interromperlo, farlo parlare, fare in modo che si svuotasse, che uscisse tutta la sua rabbia e poi intervenire, dice, oppure hai sbagliato proprio a combattere con questo. Vabbè, questi devono vendere le cartucce, mica far fare gli psicodrammi terapeutici, poverini. No, che devono... ma per poter vendere devi capire chi hai di fronte. E a seconda del soggetto differente devi usare differenti leve. E beh, secondo te è così facile vendere? Giorni fa ho accompagnato mia figlia per la prima volta su un campetto di calcio. Ama tantissimo lo sport questa bambina. Vuoi farla calciatrice? No, altri talenti, spero che non scelga di fare la calciatrice. Ah, guarda che bello sport. Però se lo sceglie lei, io la aiuterò, se lo sceglierà lei. Allora, su questo campetto, nella lezione precedente, c'erano 12 bambini che si sfidavano, più o meno dell'età di mia figlia. I genitori tutti intorno, invasati, Gianluca. Delle bestie. Invasati, si vedeva chiaramente che alcuni di loro, non tutti, grazie a Dio, ma almeno un 5-6, stavano puntando tutto su quel figlio che doveva diventare il nuovo Messi. E diciamo che in un caso forse il ragazzino ha del talento, gli altri 4 erano delle schiappe. Ma i genitori esercitavano una violenza così forte nell'obbligarli ad essere già da piccoli ciò che non potranno mai diventare. Pensa che ansia di prestazione questi bambini avranno. Un'ansia di prestazione. Per soddisfare i genitori saranno disposti a uccidere. Gianluca, io ti parlo di violenze psicologiche gravissime a cui ho assistito. Non di ansia da prestazione, quello è il minimo. Ti parlo di violenze psicologiche gravissime. Tipo se non dai un calcio negli stinchi a quello, il papà torna a casa e ti spezza le gambine, cosa del genere. Ti spezza le gambine, tu Domè non hai fatto neppure un gol, vergognati, sei una femminuccia, senti un po', sei una femminuccia, stasera non guardi cartoni e non hai diritto neppure al dolce, perché non sei concentrato sull'obiettivo, un bambino di 7 anni. Non sì, perché al padre l'hanno fatto quei corsi scamuffi. Di motivazione aziendale, magari farà ragioniere in qualche catasto cittadino, gli hanno fatto un corsettino quelli che fanno i capi del personale quando non possono dare le gratifiche, quindi ha capito. Luca, gli obiettivi. Il bambino stava così male che ha vomitato e lui mentre vomitava continuava a inveire contro il cucciolo. Perché non aveva fatto un gol? Avrei voluto prenderlo a schiaffi. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Gli rompi molto le palle a tuo marito. Oh Gesù, però so quando mi devo fermare. E quando è il punto massimo? Il punto massimo? Quando vedi che comincia a filare l'accetta, quando? No, le scenate di gelosia. Ah, sei gelosa? Gelosissima, porta. Ma perché lui cos'è, un puttaniere? Però poi mi fermo un momento prima. Ma perché di diciamo, tuo marito ha la tendenza al puttaniere oppure è la tua gelosia senza motivo? Allora, non lo so se io questo non l'ho scoperto fino in fondo, Gianluca, perché... Ma quali tracce hai di questo tuo sospetto? Il fatto per esempio che lavora molto oltre l'orario di lavoro, no? Vabbè, quindi, questo magari è uno che investe, no, che investe nel suo... Controllo, però vedi, non vado mai fino in fondo. Secondo te uno se ci avesse l'amante deve per forza andarci oltre l'orario di lavoro. L'ora migliore statisticamente per consumare rapporti adulterini è dalle 13 alle 15. Infatti anche in pausa pranzo manca e io con... Vabbè, in pausa pranzo andrà a mangiare. In pausa pranzo andrà a mangiare, ma di solito si mangia mezz'ora. Dura la pausa pranzo, poi se invece dura un'ora e mezzo controllo, però ripeto. Ma tu non puoi fare un'analisi corporea per vedere se sono delle tracce, reperti? Anche quello. Lo fai? Anche. Hai mai trovato nulla che ti insospettiva? Sì, ho trovato qualcosa che mi insospettiva. Tipo, ma fammi poi... capire. Ma vuole sapere che sono le tracce, se uno si prepara. Gianluca, ascolta. Capelli. Per me una cosa deve essere chiara. Facciamo un bilancio, fino ad oggi. Ho motivi seri per chiudere questa relazione, serissimi per chiudere questa relazione, quindi privarmi di un uomo che stimo, che ammiro. Attenta, hanno detto che anche la moglie di Fantozzi dice: Ugo, ti stimo tanto. Brutto dire un uomo che stimo. Ammiro. Con il quale fondamentalmente sto bene, ancora facciamo dell'ottimo sesso dopo 28 anni. faccio questo bilancio e dico no, non ho dei motivi seri. E quindi lascialo divertire, ti frega, se anche fosse. Eh no, però poi mi rode. Quindi, non, vabbè, rendigli pan per focaccia, che ti devo dire? No, sì, dico tutte cose. Non ho ancora raggiunto questa convinzione. Perché ancora non hai trovato chi ti piace. Può essere, può solo essere, quello. Non lo so. Non lo so. Una cosa è sicura però. Non ti sei messa sul mercato. Fermo prima di avere le prove. Ok? Perché se poi avessi le prove lì diventerei ma altro che. Si può, guarda, credimi, la gelosia è un meccanismo irrazionale. La gelosia vive continuamente alla ricerca della conferma che è vero quello che si sospetta. Tu non chiederesti di meglio di trovare la traccia, la pistola fumante addosso a tuo marito, quindi avresti la conferma di tutte le tue paure, che magari, poveretto, è soltanto una persona che lavora e basta. No, invece no. Mi fermo un attimo prima di avere la prova. Ma gliel'hai mai chiesto? Certo che gliel'ho chiesto. E lui che dice? Nega naturalmente. Beh, qualunque uomo intelligente. Beh, sì, è un professionista da questo punto di vista. Chi è che ammette? Dice, sì, è vero, sto con l'amante. Almeno che non ho deciso che è finita. Allora ti dice, sì, è vero. Ero in compagnia di tizio Caio. Beh, di fare anche il nome sarebbe criminale, però, scusa. Voglio dire, se è finita, è finita. Non mi dirà mai, sì, è vero, ti dice sei una pazza. Tu sei pazza, tu vaneggi, e quello è il classico, ma non è vero. Però mi fermo sempre per. Tu mi sembri molto convinta che sia vero, invece, sentendo le tue parole. Mi sembra molto, molto convinta. No, non ho la convinzione. Ogni tanto ho dei sospetti. Per esempio, questo è un periodo positivo in cui non ho nessun sospetto. No, e poi sei un periodo di tranquillità, che magari si è dato una calmatina, forse, sto periodo. È anche inverno. Ho dei sospetti, però poi sto andando a controllare che sta facendo. Arriva il momento in cui in macchina dico a me stessa, ma se adesso entro e lo trovo in compagnia, sono disposta a distruggere tutto. Ma stasera dove consuma? In ufficio? Lì potrebbe se essere. Fosse mai vera. Ma lì ci sono delle attrezzature, non so, dei divani molto comodi? No, assolutamente. Quindi dovrebbe farlo sulla scrivania, su una sedia? Certo. Vabbè, poverino, perché pensi che un professionista come lui, benestante, dovrebbe andarsi a fare una cosa così sulle sedie, dai, sulle scrivanie? Beh, potrebbe anche quello essere. Vabbè, una volta, due volte, ma non trovi un amante che si presta a venire a accoppiarsi con te sulla scrivania sempre, cioè un'altra amante. Potrebbe, non lo so, io non è che controllo dove. Forse ho un letto gonfiabile, potrebbe essere questo. Potrebbe. Ci sono oggi, costano pochissimo. Ti gonfi, metti la spina elettrica e si gonfiano e diventa un letto. Stai divertendo. No, ti do degli elementi. No, sarebbe un se lui avesse un divano acconcio alla consumazione, tu sospetteresti e andresti lì con il luminol, con tutte le diciamo, per trovare le prove. Lui probabilmente ha quei lettini gonfiabili che vendono per campeggio, se lo gonfia se lo sgonfia ogni volta e tu non trovi nessuna prova. Io non so neppure nulla, perché lo fa sparire abilmente. Certo, dici tu. Ma secondo me non fa nulla, guarda. Però devi stare attenta solo a una cosa, credimi, la gelosia in un uomo e penso anche in una donna è la conferma che una persona ancora ci tiene a te. Quando una persona non è più gelosa vuol dire che ormai è passato il rapporto, è diventata un'altra cosa. Può esserci la stima, può esserci comunque la necessità di stare assieme, vuol dire che proprio di te non gliene sbatte più le palle. E non è mica tanto una liberazione, sai, alla fine. Un po' dispiace sempre non avere una persona gelosa. Ma quando la gelosia diventa ossessiva, oltre il limite in cui ti fa anche sorridere, ti fa divertire e ti senti veramente spiato, guarda che scatta un meccanismo di rabbia e di odio terribile. Sia che tu sia innocente, tu che sia colpevole, comunque sia, se veramente c'è qualcosa, ma ti incazzi di brutto se una persona ti sta sopra. Se poi non c'è niente, ancora peggio. Dici, ma che vuole questa? Perché non mi lascia respirare? Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Devi stare molto attento, che la gelosia a questo punto o la finalizzi, lo voglio scoprire e se è, mando tutto a rotoli, o se no, prenditela più tranquilla, veramente datti un'occhiata in giro, è meglio. Ma mica dico devi essere adulterina, ma se ti prendi gli spazi di vita tua, di libertà, sei più comprensiva anche di eventuali sue fughe, cadute e via dicendo. Poi che vuoi che sia, dai, si fa una doccia, torna tutto come prima. Tu ti fai dei film, perché magari lui si prende il caffè insieme a un amico, magari si fa il pisolino nel suo ufficio, o magari, che ne so, quei graffi che trovi sulla sua schiena è semplicemente perché magari è andato a correre, è caduto per terra, non so. Quei capelli che trovi ammanciati nella sua camicia è perché magari, non lo so, è andato dal parrucchiere, gli sono rimasti addosso attaccati i capelli di un altro cliente, capito? Non devi dare corpo a queste prove. Ci penserò, però non sono ossessiva. Le macino dentro, tranne quando sono troppo evidenti, allora. Ma che cosa significa per te troppo evidente? Dimmi una prova troppo evidente, voglio capire. Troppo evidenti, se trovo un numero ripetuto nella tua rubrica, ripetuto ogni giorno, parecchie volte al giorno. Ah, tu allora vai a vedere il telefono. In passato, quando ho controllato il telefono, certo. Oppure se trovo dei capelli lunghi che non siano del mio colore. I capelli addosso, sì, quello è. Però scusami, io lavoro in un ufficio, ci sono decine di colleghe che ti passano vicino, ti passano addosso, ci stai addosso, nel senso, in un ufficio la gente passa, è una redazione, figurati. Mi potranno rimanere addosso capelli biondi, lunghi della collega, sì, in questo momento davanti. Certo, ma io questo lo prendo in considerazione, infatti sto zitta. Guarda, posso dirti una cosa? Contro il genere maschile, quando l'uomo va con l'amante poi fa un'operazione di disinfestazione. Molti uomini vanno in giro con due camicie uguali, se la cambiano. Un amico mio che veramente era un puttaniere usciva sempre con una camicia, comprava sempre le camicie uguali, due, usciva sempre con una camicia dentro la borciana 24 ore. Lui faceva il venditore, c'ha sempre una camicia uguale dentro, e gli dice: ma perché ti porti questa camicia? Dice: così te la cambi, capito? Una in tintoria e una la cambi. Cioè, l'uomo fa una disinfezione totale, si lava, si fa la doccia, si disinfetta, come le donne d'altronde, figurati, una donna, tu gli uomini adulteri potrai conoscere, ma non conosci le donne adultere. Le donne adultere sono capaci di tutto, si riverniciano da capo a piedi, tornano a casa che sono fresche come delle rose, e magari, che ne so, hanno passato delle furibonde battaglie amorose per tutto il pomeriggio, capito? E gli uomini è la stessa cosa, Immagina te se dovessi te cancellarti di dosso le tracce di un amante, saresti capacissima. Figurati, tu in mezz'ora torni un'altra persona. E perché un uomo non dovrebbe fare la stessa cosa? Sto immaginando. Capisci? Immaginando esattamente. Un uomo fa la stessa cosa, fa la stessa cosa. Si sciacqua, si lava, si. Figurati. Capacità di farmi vedere in maniera plastica. Capito? L'operazione di cancellazione del. Ti ricopri di creme, ti cambi tutta, ti rifai i capelli, ti ritrucchi e ritorni come nuova, capito? Mica si vede, sai. Se si vedesse, figurati, porteremmo addosso i segni evidenti di ogni nostra debolezza. Beh, io sono arrivato alla mia stazione, è stato interessantissimo. In bocca al lupo. Spero, in bocca al lupo a te. Spero di non aver seminato dei semi di discordia, di averti dato degli elementi di saggezza. Mi hai dato un elemento di saggezza importantissimo, di questo ti ringrazio. Che gli uomini si lavano qualche volta dopo essere stati con l'amante, ho capito. Ciao, buon viaggio. Ciao. Ciao, ciao, buon viaggio. Ciao. Il treno va. Qualcosa sta cambiando nell'affibbiarmi etichette in quanto risponditore a lettere. È il momento, sì, dell'audiolettera, e questa volta, finita probabilmente la sequenza dei maschi che mi pongono problemi, probabilmente non mi scrivono più perché tanti ne avrò rovinati e a tanti avrò tolto ogni illusione che per loro ci possa essere ancora qualche barlume di serenità nella loro vita sentimentale, ricominciano le lettere di donne, ma si vede che c'è stato un salto generazionale. Non sono più persone che mi chiedono soluzioni o risposte per problemi di relazione, ma sono mamme che mi parlano dei figli. Evidentemente ormai mi vedono come un saggio consigliere a cui potrebbero affidare non soltanto il futuro, ma anche la virtù delle loro illuminate figliuole. Caro Gianluca, tempo fa ho sentito una tua ascoltatrice mamma parlarti del caso del figlio che si era innamorato di una donna islamica più grande. Anche io sono una mamma e mia figlia ha 25 anni e anche mia figlia si è innamorata di un uomo più grande. Ti scrivo non tanto per chiederti un consiglio, quanto per fare una considerazione. Mia figlia ha fatto l'università, si è laureata a pieni voti e dopo solo un anno ha trovato lavoro in un'azienda che l'ha assunta a tempo indeterminato. Sì, il famoso posto fisso su cui ha ironizzato tanto Checco Zalone nel suo ultimo film e che invece io non disdegno per niente, per il solo fatto che non esiste un mercato libero del lavoro in Italia. Ma vabbè. Diciamo che ero ovviamente orgogliosa di questo piccolo miracolo. Una ragazza che senza raccomandazioni si laurea e trova subito lavoro, tra l'altro nel ramo di suo interesse. Poi però Come sempre nella vita, le persone cambiano. Cambiano nei desideri e nelle ambizioni. 6 mesi fa mia figlia ha conosciuto qui in Italia un 37enne, istruttore di immersioni, e se n'è innamorata. È andata 1 mese quest'estate nell'isola in cui lavora, nella sua scuola, che accoglie turisti da tutto il mondo. E ora ha deciso di fare il passo definitivo. Si sta licenziando per andare a vivere con lui in questo contesto vacanziero aperto 6 mesi all'anno. Lei lavorerà come segretaria della scuola. Molla tutto, così, dopo 1 solo anno. È vero, sembra proprio uno stralcio di sceneggiatura di un film di Checco Zalone. Una madre che tutto va investito nell'avvenire della figlia, tanto che finalmente era riuscito a farle ottenere il tanto ambito posto fisso. E adesso cosa fa? Per una vacanza, un momento spensierato, butta tutto alle ortiche, quello per cui la mamma si è fatta un'infinità di sacrifici, si è distrutta il cuore, si è passata notti e notti nell'ansia degli esami, delle prove, dei concorsi, delle ammissioni, e butta tutto per una banalissima storia d'amore, per un istruttore di immersioni in un villaggio turistico, che è quanto di meno affidabile una mamma possa pensare come uomo accanto alla propria figlia. Quando mi ha comunicato la sua scelta, non ho fatto altro che prenderne atto, sperando tutto il meglio per lei. Del resto, che le potevo mai dire? Ma sarei ipocrita se dicessi che questa sia una scelta felice. So bene che prima o poi si stuferà di passare inverni in un'isola senza distrazioni a parte il mare. So bene che una cosa è innamorarsi d'estate, un'altra è convivere con una persona che si conosce poco. Insomma, sono pensieri che qualsiasi persona con un po' di esperienza inevitabilmente fa. Non è tanto dell'amore che mi preoccupo, quello tanto è ingovernabile, ma per il posto fisso a cui rinuncia. Se e quando ritornerà nel nostro paese, temo che difficilmente avrà la possibilità di ritrovare il lavoro perduto. Ad essere pessimisti, si ritroverà disoccupata e con un'esperienza amorosa alle spalle e dovrà ricominciare da zero. Dammi qualche motivo per pensarla in modo ottimistico. Ciao, Clara. Non ti do nessuno spunto ottimistico, la penso esattamente come te. È chiaro, ha fatto una scelta tua figlia, una scelta molto rischiosa. Cosa aveva davanti a sé nell'avvenire che tu avevi con tanta fatica e tanto sacrificio preparato per lei? Di passare le sue giornate in un ufficio, di avere uno stipendio fisso, che non è poco, non lo sottostimo, di trovarsi magari un brav'uomo che la sposasse, già circostanza molto difficile, perché oggi è una merce molto rara. Se tu ascolti con attenzione quelle che sono le lettere e le confessioni delle viaggiatrici che condividono con me lo spazio del loro viaggio, avrei potuto magari avere un'infinità di storie d'amore. Magari tu non immagini nemmeno nel tuo casto pensiero materno cosa possa accadere tra scrivanie, armadietti e luoghi di comodo degli uffici italiani. Probabilmente la sua moralità, la sua tenuta fisica, la sua integrità sarebbe stata molto più compromessa alle prese con capuffici esigenti, con colleghi maneggioni, con colleghe invidiose. Quindi probabilmente dopo qualche anno di questa vita l'avresti vista distrutta, invecchiata, moralmente provata. Ora lei naturalmente ha giocato tutto sull'illusione. Il 37enne, non è più nemmeno un ragazzino, istruttore di vela, se l'è presa, se l'ha accollata. Evidentemente lui trova in lei qualcosa, quindi ha dei valori, ha delle qualità che vanno ben oltre a quello di essere considerata semplicemente l'impiegata modello o la lavoratrice modello. E quindi finché lei avrà questa moneta da spendersi con l'aitante, robusto e un po' passato, devo dire, rispetto allo standard istruttore di vela, tu potrai pensare che lei avrà comunque la possibilità di vivere una fetta di vita felice. Sole, mare, sesso selvaggio, attività fisica, notti sulla spiaggia, feste, musica, cocktail alla frutta e via dicendo. Poi se questo possa durare per molto tempo, se lei si accontenterà di stare accanto a un uomo che comunque avrà una vita amorosa molto attiva, facendo l'istruttore di vela naturalmente, o di surf, o facendo comunque l'organizzatore dei periodi di gioia di tante persone e di tante donne, naturalmente prima o poi lui comincerà a fare quello che fanno tutti i mariti in maniera abbastanza sommessa e con sensi di colpa, forse magari in maniera più solare, in maniera anche più aperta e più esplicita. Quindi tua figlia dovrà fare una scelta: o starà al gioco o dovrà tornare indietro. Certo, tornerà che sarà un cadavere, sarà l'ombra di se stessa. avrà delle ferite così profonde nella sua coscienza, nella sua anima, nella sua esperienza, che tu la vedrai ancora una volta come la figlia da accogliere, la figliuola prodiga, e riempire della tua immensa riserva d'amore. Quindi per te sarà un bel periodo, avrai una figlia distrutta e disperata di cui occuparti, quindi dare un senso e prolungare la tua maternità. Lei rispetto alle sue colleghe sono rimaste in quell'ufficio, comunque sarà vista un po' più di mare, un po' più di sole, e qualche aitante uomo molto meglio di quelli che palpitano fiacchi e flaccidi dentro le grisaglie dei suoi possibili e probabili colleghi.